I colori nascono qui, su quest'isola. Le più strane tonalità scoprirai. Non c'è posto più stravagante dell'isola. Dipingiamo d'arcobaleno questa città. Basterà un poco di giallo, mischialo insieme al verdino. Dove hai messo il bianco? Eccolo qua. Un albero rosso tra poco fiorirà. Tre frutti a pallini sul ramo spunteranno. Un corvo blu li beccherà. E nessun nido rosa tornerà. I colori nascono qui, su quest'isola. Le più strane tonalità scoprirai. Della tua fantasia. Chi lo dice che il mare azzurro certe volte è anche un po' d'oro, ma il tramonto viola diventerà. Un pesce arancione dal mare salterà. Tra conchiglie azzurre poi si divertirà. Gabbiano blu saluterà. Che su uno scoglio volerà. I colori nascono qui, su quest'isola. Le più strane tonalità scoprirai. Non c'è posto più stravagante dell'isola. Dipingiamo d'arcobaleno questa città. Basterà un poco di giallo, mischialo insieme al verdino. Vale.